Incontri di Gianfranco Fabi. Nessun dorma, nessun dorma. Tu pure apri, principessa, nella tua fredda stanza. Buongiorno e buona domenica ai nostri ascoltatori e buongiorno e buona domenica anche a Luigi Roth. Buongiorno. Luigi Roth è qui con noi per questo incontro di questa mattina e ha scelto, voluto, preferito questo brano di Nessun Dorma, un brano di Puccini che è un invito, è forse un invito all'azione. Luigi Roth. Sì, mi è venuto molto molto in fretta alla mente quando mi è stato detto quale musica evocare. Mi sembrava che in un tentativo di proposto dinamico, tra virgolette, potesse essere un brano che evocasse appunto una dinamica, incoraggiasse un atteggiamento vivace e attivo. Ecco, un atteggiamento vivace e attivo che in fondo ha contrassegnato e contrassegnerà ancora a lungo la vita di Luigi Roth, 70 anni, anche se non ancora compiuti, coniugato con tre figli, milanese. Altre caratteristiche della carta d'identità di Luigi Roth? Beh, nato in un quartiere popolare che era proprio sull'edge, cioè sulla divisione tra un quartiere borghese e un quartiere molto molto popolare, era quello dell'isola di Milano, Porta Garibaldi, con tutto il fascino di questo interclassismo incredibile, con tutto il dramma di un dopoguerra pieno di problemi, ma con una tensione positiva enorme. Tensione positiva che negli anni 50, certamente purtroppo, perché purtroppo vedeva la guerra passata, ma per fortuna aveva raccolto in termini complessivi, in termini di condivisione, tanta gente che voleva ricostruire attorno a un progetto positivo, fisico di ricostruzione, ma anche di valori, anche di progetto e anche di tendenza. Cosa ricorda di questi anni 50? Beh, fisicamente alla vista di una città accasciata, che però aveva ripreso a ricostruire. La mia casa dava sui vecchi bastioni di Porta Garibaldi, c'era una mensa popolare. In quegli anni la fame era un problema vero e mi è restato nel cuore il problema della fame. È una cosa che io spotessi non la permetterei mai, dovunque e mai in nessun momento, ma vedere quelle file di persone che andavano verso questa mensa popolare, questo capannone verde enorme con queste scodelle in mano, era atroce per un bambino, soprattutto di pochi anni, 10 anni, e era una cosa che lasciava il segno. Difatti è quella che ricordo con più forza, ma nello stesso tempo anche la ricostruzione. Ecco, la ricostruzione ha avuto nei suoi simboli la fiera. Anticipiamo un po' i tempi, poi ne parleremo più avanti in questo nostro incontro. Luigi Roth ha da poco lasciato la presidenza della Fondazione della Fiera di Milano, è diventato presidente di una nuova iniziativa nel campo sanitario. Sì, Consorzio della Città della Salute, realizzerà in un unicum, pur mantenendo le proprie immagini, autonomie e proposte di progetto sanitario, le tre realizzazioni sanitarie che già ci sono, ma da rifare, che sono i tumori, l'istituto scientifico, il BEST, il neurologico, altro istituto scientifico, e il SACCO, che è un ospedale provinciale, sede anche del terzo polo universitario medico. Ecco, ma ritorniamo un po' agli anni 50 e magari anche agli anni 60, anni in cui Luigi Roth poi è entrato nel mondo produttivo con l'idea fin da subito di fare il manager. Beh, dunque, certamente nel cuore uno porta i progetti, come dire, più evidenti, no? Che appaiono più evidenti e più, anche se mi posso dire, determinanti rispetto al livello di contribuzione e di valore aggiunto che ci si dà. Io sono arrivato in una grande azienda, la Pirelli, dove tra l'altro ho la fortuna di esserci tornato come consigliere d'amministrazione. Questa grande azienda che stava in Viale Sarca, che era in sequenza, dopo la Pirelli c'era fisicamente la Breda e dopo la Breda c'era fisicamente la Falck. Quindi migliaia di persone che lavoravano su tre turni molte volte e davano un senso di operosità di produzione E tant'è che io sono poi rimasto molto legato all'hard, quindi al secondario, anche perché ritengo che senza nel secondario nessun paese di livello come il nostro possa andare avanti. Però Milano è profondamente cambiata dai tempi delle grandi imprese, dalle grandi industrie, appunto la Falck, la Pirelli, Sesto San Giovanni. La classe operaia non esiste più, probabilmente non esiste più neanche il ceto medio. Com'è la Milano di adesso? E la Milano di adesso è un po' in cerca di un identità. Disegno da interpretare anche di identità, ma il potenziale è enorme, perché uno non può perdere la propria storia. Se uno scorda la storia, scorda tutto, non vive il presente, non costruisce il futuro. Quindi manager privato nella Pirelli, una grande industria privata, poi manager pubblico, Ansaldo. Sì, poi arriva poco a poco in una determinazione di lavorare per un azionista anche più ampio, ancorché Pirelli fosse un azionista molto ampio, e quindi andare a lavorare nelle partecipazioni statali. Ho la fortuna di arrivarci, ci arrivo nella Breda Finanziaria, che si occupava in sostanza di aziende di produzione di armi e quindi della difesa, poi passo al ferroviario, divento responsabile anche del saldo trasporti e quindi capo settore in Finmeccanica. Nel durante mi occupo, tanto per stare nelle ferrovie, anche delle Ferrovie Nord, quindi un periodo veramente fortissimo da un punto di vista dell'impegno, eccitante, stimolante, di grandissimo entusiasmo, che ricordo con grandissima nostalgia, ma poi vivo il presente naturalmente. In cui non c'era tempo di dormire, come il richiamo iniziale di questa trasmissione. Io mi fermerei un attimo proprio su questa logica dell'imprenditore pubblico, un tempo delle partecipazioni statali molto spesso criticate, probabilmente anche a ragione, per una certa vischiosità, per un certo legame con la politica che faceva privilegiare gli interessi politici sugli interessi generali. Cosa ricorda delle partecipazioni statali? Beh, io ricordo che ci sono voluto andare, quindi è stato un atto di determinazione. Io non ero né disoccupato dagli angoli delle strade a procurarmi denaro per vivere per me e la mia famiglia. Mi è sembrato di farlo per un azionista più ampio, che era il paese. L'ho fatto, ho trovato gente di livello altissimo, e io non credo che nessun altro gruppo potesse esibire mediamente dei livelli dirigenziali di tale portata. E sono pronto a scommettere, vedo che la gente comincia a ricordarsi, perché poi la memoria certe volte fa difetto. Tra l'altro, io ho avuto la fortuna di gestire aziende molto complicate, molto complesse, ma quasi tutte quotate in borsa, quindi c'era poco da fare. Io non avevo fondi di dotazione, o stavo sul mercato e facevo e portavo risultati, o si andava a casa. Questo era il destino delle aziende in genere, al di là del fatto che poi facessero riferimento all'IRI, all'ENI, all'EFIM o quant'altro. Quindi il problema non era tanto il pubblico o il privato, quanto una gestione sana, una visione costruttiva, anche sfruttando le opportunità del paese. Incontri. È un peccato lasciare a metà questa musica, ma il nostro incontro è con Luigi Rotta. Abbiamo iniziato parlando della sua vicenda personale, della sua esperienza, dell'ingresso nell'ambito manageriale in campo pubblico e attualmente, dopo aver ricoperto la presidenza della Fiera di Milano, tra un po' ci torniamo, presidente di Terna, la grande impresa che controlla la gestione del traffico elettrico in Italia, dico bene? Sì, la trasmissione, in realtà dispaccia e trasmette. E che sta affrontando adesso una nuova sfida, mettendo insieme le eccellenze sanitarie milanese. Allora, Luigi Rotta, andiamo alla Fiera di Milano, forse l'esperienza più significativa degli ultimi anni, che ha avuto anche una grande trasformazione. Quali sono stati i principi con cui ha preso in mano questa iniziativa e ha portato avanti appunto la trasformazione della Fiera di Milano, non dimentichiamolo, con la realizzazione del grande polo, nuovo polo di Roppero, che ha portato appunto la Fiera di Milano a essere una delle maggiori del mondo? Beh, era un grande progetto, anche se non è sempre scontato che un buon progetto abbia per definizione un buon esito, ma è importante averlo, con una squadra certamente molto molto nutrita e di livello notevole, cercando di fare cultura, quindi andare sull'ambiente, andare sul territorio, dare una contribuzione nel durante, dal momento in cui è partito il progetto, quando l'abbiamo fatto, a quando è arrivato, in modo tale che l'andata e ritorno non solo dell'informazione ma del vissuto potesse arricchire il progetto stesso, al servizio credo di un bene comune che andava al di là del progetto, ma che era più ampio, e come fare cultura rispetto a dare nozioni è un fatto orizzontale. In pratica, sfruttare fino in fondo il grande nome della Fiera di Milano, un nome di grandi tradizioni, che negli anni del miracolo economico era il punto di riferimento di tutta l'economia italiana, e renderlo moderno, renderlo al servizio del paese. Secondo quali direttrici? Non solo un insediamento di carattere fisico, non solo grandi padiglioni, ma qualcosa anche dietro questi padiglioni, un progetto di che tipo? Un progetto che fosse al servizio dell'interesse non solo dei visitatori, degli espositori, di tutti gli interpreti di questa realtà fieristica, ma anche della collettività e della zona attorno alla fiera, della Lombardia, del paese, fosse un hub quindi di informazione e di formazione, diventasse anche un fatto evocativo di bellezza. La fiera è nata intorno a un progetto, credo, molto bello. In fondo è più facile fare delle cose belle con qualche costo in più, ma certamente con un grado di permanenza molto diversa. D'altra parte, l'impresa, l'azienda, la fiera stessa non è un'isola, non è un'isola che come tale permanesse da sola, stesse da sola a fare strumento di coinvolgimento, di sviluppo economico, ma poteva essere un agorà, e può essere un agorà vero, dove l'incontro diventa un arricchimento e la moltiplicazione si sostituisce all'addizione. Certo, la fiera rifondata, in pratica è proprio il titolo di un libro edito da Scheiwiller, in cui Ludovico Festa intervista Luigi Rotto su questo tema, su come è cambiata la fiera, e il sottotitolo è Da Milano al mondo, cioè dalla realtà locale alla realtà globale, la fiera come un po' l'espressione di questa globalità. Ci sta riuscendo la Fiera di Milano? A me pare di sì, perché le premesse sono quelle giuste, nel senso che il contenitore è fatto per contenere cose buone, e questo mi pare la strada che è stata intrapresa ormai da 5 anni, perché la fiera sembra fatta ieri, in realtà 5 anni, quindi collaudo fisico, collaudo funzionale, operativo ormai in essere, ed è un punto di attrazione, un punto di riferimento per incontri, dicevo prima, ed ha d'altra parte anche l'emblema di una civiltà, di un paese che si muove, che è in dinamica, che attrae, offre, con una capacità quindi in permanenza di essere un punto di riferimento, io penso, non solo dello sviluppo del paese, ma anche dell'arricchimento anche culturale trasversale. Ecco, abbiamo vissuto proprio settimana scorsa la settimana del Salone del Mobile, un grande salone, forse uno dei più grandi che vengono ospitati dalla fiera, ed è un po' un segno anche della vittoria dell'economia reale sull'economia finanziaria. Forse c'è bisogno di ritornare all'economia reale, Luigi Rotto. È un concetto che mi sta molto a cuore. Ecco, io ero molto appassionato, attento lettore e interprete per quel che potevo, per esempio, di John Maynard Keynes, che è stato uno dei più grandi economisti e illuminati pensatori di economia del XX secolo, dove certamente, contestualizzando il pensiero, la proposta, il programma di Keynes, certamente possiamo ritrovare un modello applicativo anche per l'oggi. Non è che quello che diceva Keynes nel 30, nel 35 debba essere applicato ora, far buchi e chiuderli per la pace sociale, ma l'attenzione all'economia reale, cosa che è stata persa, ed è una delle vere ragioni per il grande, grandissimo disastro che è stato visto e purtroppo da noi vissuto, dal mondo e dall'Italia, l'anno scorso e ancora a conseguenze quest'anno. E quindi anche con un giusto equilibrio tra iniziativa privata, regole pubbliche e anche valori di fondo dell'economia. Un'economia, si è parlato spesso di un'economia che deve riscoprire l'etica. Luigi Rotto. Beh, dunque l'etica, per parlare in italiano, dobbiamo ricordare cosa vuol dire. Vuol dire avere delle regole, darsi delle regole che in realtà poi sono regole di carattere generale, addirittura alcune di queste arrivano ad essere evocate dalle leggi naturali, no? E questa è l'etica, poi applicata e scansionata su una serie di momenti operativi. E allora le regole ci sono, ce le diamo, vanno osservate. E se poi pensiamo all'economia reale, l'economia, come sempre, che è una scienza sociale, perché fa parte delle grandi scienze sociali, perché ha a che fare con l'uomo, anche in questo caso pretende assolutamente che queste regole non solo ci siano, ci sono, ma vengono applicate tutti i giorni. Ecco, un'economia che risponda a queste regole che ovviamente devono basarsi su dei valori di fondo, è un'economia che funziona meglio, un'economia che risponde meglio alle esigenze della società attuale, ma soprattutto di quella delle generazioni future, a cui dobbiamo lasciare dei valori, ma dobbiamo lasciare anche una realtà fatta di ricchezza materiale e immateriale. E certamente quello che lei dice è il concetto di sostenibilità. Tutti parlano di queste frasi, dicono di queste parole, talvolta non pensano al vero significato, ma sostenibilità vuol dire rispettare e usare gli strumenti in genere che abbiamo a disposizione, pensando che poi questi strumenti non solo debbano permanere, ma esserci ed essere da usare per quelli che verranno dopo, figli, nipoti e quindi società del dopo. Questa è la sostenibilità vera. La sostiene anche guardando le regole e applicandole. Ecco, guardando le regole e applicandole, diamo un'occhiata anche critica a cosa si sta muovendo nella realtà, anche nella realtà italiana. C'è un po' troppo immobilismo anche nella politica. Beh, c'è qualche incertezza, probabilmente perché sono da ripescare alcuni grandi progetti che sono poi lo stimolo per seguire alcune strade con un occhio all'interesse generale. E questo viene, ma il ministro Tremonti l'ha sottolineato, mi permetto di dire, più volte, anche da evocare che questi progetti sono parte, tutti i progetti sono parte di un unico progetto. È un grande sistema, un paese come tutti i grandi paesi come il nostro, un paese che deve dare un occhio forte ai sistemi complessi, e sono quelli che poi, messi d'accordo, si fa per dire, possono produrre crescita, sviluppo e progresso. Queste sono le premesse perché il paese possa riprendersi e possa avere il posto che si merita nella comunità internazionale. In cui ognuno deve fare il proprio dovere nel posto in cui è, indubbiamente, ma in questa prospettiva c'è qualcuno che deve fare qualcosa di più, forse la politica ha una responsabilità in più. Ma io credo che possa riappropriarsi del diritto di fare il progetto. La politica è la cosa più nobile, non l'ho inventato io, ma qualche mille anni fa i nostri grecisti lo sanno bene, ma anche chi ha studiato un po' di filosofia fa riferimento alla parte più nobile, l'espressione più nobile del vivere civile, mettere insieme delle regole per cui i costi di tutti siano inferiori, ma ci sia soprattutto una capacità di valore aggiunto e di contribuzione, in modo tale che la partecipazione sia una cosa vera. Milano sta avviandosi verso l'Expo 2015, come vede le prospettive di Milano, le prospettive in cui peraltro la fiera sarà uno dei punti forti di questa rappresentazione? Beh, l'Expo, non dico che è una grande occasione, l'hanno già detto tutti, forse tante volte, troppe volte, è un'occasione straordinaria. Io credo che però è certamente importante il momento dei sei mesi in cui l'Expo ci sarà e mostrerà quello che sarà capace di fare. Ma per me è molto importante come ci si arriva, quindi il percorso di questi anni, 4 o 5 che siano, e quello che lascia dopo, intendo. Il percorso da fare è una contribuzione che va e ritorna sui temi scelti, che sono temi nobilissimi, con tanti paesi che sono quelli che ci hanno votato. E quindi è una crescita, un'offerta di formazione, è un interscambio di presenze loro, dei paesi loro qui e nostra là. E questa è la costruzione del disegno del progetto, attorno al quale poi certo c'è il momento dell'esibizione. Sono finite le fiere muscolari, Shanghai è certamente l'ultima, nel 1906 c'è stata Parigi con la Tour Eiffel, ma oggi credo che il contributo di un Expo possa essere diverso, così anche per lasciare per il dopo un segno importante. Ecco, un segno a cui è chiamato tutto il paese, in fondo non è solo Milano, ma è l'Italia che si presenta, un paese che è un po' diviso, un po' frammentario, un po' individualista, un po' che bada agli interessi molto particolari, più che agli interessi interessi generali. Potrà essere certamente un'occasione per ritrovare una spinta, ovviamente nelle diversità, in quello che poi viene chiamato anche il federalismo, ma in fondo in una identità unitaria di questa Italia. Ma io credo di sì, anche perché sono convinto che la diversità è una ricchezza. E certo, va intesa in modo giusto, e la non conflittualità è quella che la rende tale. Lo schema e il progetto di Expo è potenzialmente uno dei terreni, dei tavoli grandi, non milanesi, non solamente regionali, lombardi, non dell'Alta Italia, ma di tutto il paese, che può offrire proprio questa occasione di scambio e di moltiplicazione di partecipazione. E allora, su questo fronte, con questa speranza di offrire un'immagine dell'Italia che sappia essere un'Italia di valori, io concluderei facendo riascoltare questo brano della Turandot, in cui Nessun dorma all'inizio, ma si conclude in una maniera molto piena di speranza, anzi di fiducia, anzi di certezza sul futuro. All'alba vi nascerò.